Lei sta guardando dei PC, dei notebook. Sa che anche per quanto riguarda i computer bisogna stare attenti al risparmio energetico? Sì, certamente. Secondo lei il TV consuma molto? No, non penso. Diciamo che il computer di casa è quasi sempre acceso, anche perché so che non consuma tantissimo, quindi poi io, un po' mio fratello, un po' mio padre, siamo quasi sempre su internet collegati. Ma lei, quando acquista un prodotto, guarda la tabella del consumo energetico? Eh sì, perché siamo in 5 in famiglia. Sì, da un po' di anni sì. Con questo comportamento ha notato un risparmio? A fine anno probabilmente sì, ma non lo riscontro relativamente, insomma. Ma sì, c'è questa scala più B, C, insomma, sì, sono chiare. E quindi siete anche disposti a spendere di più per avere un prodotto che poi risparmia, oppure secondo voi non è molto conveniente? Se la differenza non è molta, compriamo quello che ci offre migliori garanzie per risparmio. Tutti i prodotti nuovi ormai sono quasi tutti risparmio energetico. Si tratta semplicemente di rinnovare le cose vecchie, eliminarle il più presto possibile.